Hadith numero 28 da Abu Najih al-Irbad bin Sariya, che Allah si compiaccia di lui, disse: l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ci fece un sermone a causa del quale tremarono i nostri cuori e a causa del quale ci vennero le lacrime agli occhi. Allora dicemmo: o apostolo di Allah, questo sermone ha tutta l'aria di essere un sermone di una persona che dà l'addio, perciò dacci delle direttive. Disse: vi raccomando il timore di Allah, egli è possente ed eccelso, e l'obbedienza, anche nel caso che abbia autorità su di voi uno schiavo. In verità, chi di voi vivrà vedrà molti cambiamenti, però voi dovete attenervi alla mia pratica di vita, sunna, e alla pratica di vita dei miei successori ben guidati, i quali indicano la giusta direzione. State attaccati a esse con i denti e guardatevi da tutte le innovazioni nel codice di vita dell'Islam, poiché ogni innovazione è un'eresia, ogni eresia è fuorviamento e ogni fuorviamento ha per destino il fuoco. L'hanno riferito Abu Daud e At-Tirmizi, il quale ultimo l'ha classificato buono e autentico.